Capitolo 32. Quando si destò la mattina seguente, Fanny non aveva dimenticato Mr. Crawford, ma ricordava anche il tenore del proprio biglietto e non era meno ottimista della sera prima circa l'effetto che aveva certo sortito. Se solo Mr. Crawford se ne fosse andato, era il suo più ardente desiderio che se ne andasse conducendo via con sé la sorella, come era stato combinato, e come era tornato a Mansfield per fare. E perché non l'avesse già fatto non riusciva a immaginarlo, visto che Miss Crawford certamente non desiderava indugiare oltre. Durante la visita del giorno prima, Fanny aveva sperato di udirla annunciare una data precisa, ma egli si era limitato a dire che si sarebbero messi in viaggio di lì a pochi giorni. Avendo così deciso in modo soddisfacente quale convinzione il suo biglietto aveva prodotto, fu stupefatta, guardando per caso fuori dalla finestra, al vedere Mr. Crawford che risaliva il viale d'accesso e proprio alla stessa ora del giorno prima. La sua venuta poteva non aver nulla a che fare con lei, ma doveva evitare di incontrarlo se possibile, ed essendo in procinto di salire al piano di sopra, decise di rimanervi per tutto il tempo della visita, a meno che non la mandassero a chiamare, e siccome Mrs. Norris era ancora in casa, sembrava vi fosse poco pericolo che qualcuno avesse bisogno di lei. Se ne stette seduta per un po', trepidante, con l'orecchio teso, tremando e temendo che la venissero a cercare da un momento all'altro, ma, siccome nessun passo si avvicinò alla stanza est, a poco si ricompose. Si mise a sedere e cercò con calma di occuparsi in qualche modo, mentre lei aumentava la speranza che Mr. Crawford fosse venuto e se ne andasse senza che lei dovesse esserne informata. Era trascorsa quasi mezz'ora e si sentiva ormai al sicuro quando all'improvviso un passo che procedeva con cadenza regolare si fece udire. Un passo pesante, un passo insolito in quella parte della casa. Era quello dello zio. Lo conosceva così bene come conosceva la sua voce. Aveva spesso tremato nell'udirlo e prese a tremare nuovamente al pensiero che gli salisse per parlare con lei, qualsiasi ne fosse il motivo. E fu proprio Sir Thomas ad aprire l'uscio, chiedendo se lei era lì e se poteva entrare. Il terrore cagionato in altri tempi dalle sue visite occasionali in quella stanza sembrò invaderla di nuovo. Si sentì come in passato quando la sottoponeva a un esame di francese e di inglese. Tuttavia fu tutta premurosa nello spingere avanti una sedia per lui e nel tentativo di dimostrarsi onorata, e nella sua agitazione aveva completamente dimenticato le pecche di quel suo appartamento finché lui, fermandosi di botto, disse con grande sorpresa: «Perché non ti hanno acceso il fuoco oggi?» Fuori c'era la neve, lei era avvolta in uno scialle. Esitò. «Non ho freddo, signore, non mi trattengo mai a lungo qui in questa stagione. Ma abitualmente ti accendono il fuoco?» «No, signore.» «Come mai? Deve esserci stato un qualche sbaglio. Mi era parso di capire che questa stanza ti era riservata per darti modo di essere completamente a tuo agio. So che nella tua camera da letto non c'è caminetto, qui c'è stato un grave malinteso che deve essere rettificato immediatamente. Non devi assolutamente restare qui, fosse anche per una sola mezz'ora col caminetto spento. Non sei robusta, guarda, sei gelata, tua zia non può essere al corrente di questo stato di cose.» Fanny avrebbe preferito tacere, ma trovandosi costretta a parlare, non poté astenersi per giustizia verso la zia a cui voleva bene dal mormorare qualcosa in cui Sir Thomas colse le parole «mia zia Norris». «Ah, capisco», esclamò lo zio riprendendosi e non desiderando udire altro. «Capisco, tua zia Norris è sempre stata assai giudiziosamente del parere che la gioventù deve essere educata senza mollezza, ma deve esservi moderazione in ogni cosa. Lei è molto resistente, il che naturalmente deve influenzarla nel valutare quanto occorre agli altri, e posso capirla perfettamente anche da un altro punto di vista. So qual è sempre stato il suo modo di sentire. Il principio era buono in sé, ma poteva essere, e penso che lo sia stato, seguito troppo letteralmente nel tuo caso. So anche che fu fatta a volte su certi punti una discutibile distinzione, ma ho di te un'opinione troppo buona, Fanny, per supporre che tu voglia alimentare del risentimento per questo. Hai abbastanza buon senso per rifiutare di considerare le cose da un unico punto di vista e giudicarle con parzialità in base all'apparenza. Abbraccerai con un solo colpo d'occhio tutto il passato, Considererai i tempi, le persone, le probabilità e ti renderai conto che non ti sono stati meno amici quelli che, educandoti, ti hanno preparata per quella condizione modesta che sembrava doverti toccare in sorte, benché alla fine la loro prudenza possa dimostrarsi inutile, è stata adottata per il tuo bene. E di questo puoi star certa, che ogni piacere che dà l'abbondanza sarà raddoppiato per te dalle piccole privazioni e restrizioni che possono esserti state imposte. Sono sicuro che non mi deluderai nella buona opinione che ho di te, venendo meno in qualsiasi momento alle attenzioni e al rispetto che sono dovuti a tua zia Norris. Ma basta, mettiti a sedere, mia cara, devo parlarti per qualche minuto, non ti tratterrò a lungo. Fanny obbedì a occhi bassi, mentre le guance le si imporporavano. Dopo una breve pausa, Sir Thomas, tentando di reprimere un sorriso, continuò. Forse non sei informata della visita che ho ricevuto questa mattina. Ero da poco entrato nel mio studio quando vi è stato introdotto Mr. Crawford. Forse puoi congetturare lo scopo della sua venuta. Le guance di Fanny si facevano sempre più rosse e lo zio, accorgendosi che era tanto imbarazzata da essere assolutamente incapace di pronunciare parola o di alzare lo sguardo, a sua volta distolse gli occhi e, senza altre pause, le riferì della visita di Mr. Crawford. Era venuto al park per dichiararsi innamorato di Fanny, farle una chiara proposta di matrimonio e impetrare il consenso dello zio, che sembrava fare le veci dei suoi genitori. E si era espresso così bene, così apertamente, così liberamente, con tanta proprietà, che Sir Thomas, giudicando d'altra parte le proprie risposte e le proprie messe a punto assai precise su ogni particolare, era felicissimo di riferire la conversazione nei minimi dettagli. E poco immaginando quali pensieri attraversassero la mente della nipote, era sicuro che con quei dettagli dava ancora più soddisfazione a lei che a se stesso. Continuò, perciò, a parlare per parecchi minuti, senza che Fanny osasse interromperlo, e non provava quasi il desiderio di farlo. La sua mente era in una confusione troppo grande. Aveva cambiato posizione e, fissando intenta una delle finestre, ascoltava lo zio, profondamente turbata e smarrita. Sir Thomas tacque per un momento senza che lei quasi se ne rendesse conto. Poi, alzandosi, disse: «E ora, Fanny, avendo portato a termine la prima parte della mia ambasciata e avendoti presentato ogni cosa impostata sulla base della massima sincerità e tale da darci piena soddisfazione, devo compiere quanto rimane e persuaderti ad accompagnarmi da basso, dove, benché possa lusingarmi di non essere stato per te un interlocutore inaccettabile, devo rassegnarmi al fatto che tu ne incontri uno che ancor più meriti di essere ascoltato. Mr. Crawford, come forse hai previsto, è ancora qui, è nel mio studio e spera di vederti». A queste parole risposero uno sguardo, un soprassalto, un'esclamazione che lasciarono Sir Thomas attonito. Ma quanto più grande fu il suo sbalordimento nell'udirla esclamare: oh no, signore, non posso, davvero non posso scendere a incontrarlo. Mr. Crawford dovrebbe sapere, non può non sapere, che gli ho detto quanto basta ieri per convincerlo. Mi ha parlato di questo ieri e io gli ho detto senza reticenze che l'argomento era per me molto sgradevole e che mi era assolutamente impossibile contraccambiare la sua simpatia». «Non afferro quel che vuoi dire», disse Sir Thomas, rimettendosi a sedere. «Fuori dalle tue possibilità contraccambiare la sua simpatia? Cosa significa? So che ti ha parlato ieri e, fin dove mi ha dato di capire, ha ricevuto tutto quell'incoraggiamento a procedere che una giovinetta di buoni principi poteva permettersi di dargli. Mi sono molto compiaciuto di quello che, così ho inteso, è stato il tuo comportamento. Ha dimostrato una discrezione che merita di essere altamente lodata. Ma ora, dopo che ha fatto la sua proposta così apertamente ed onorevolmente, da dove vengono i tuoi scrupoli, ora?» «Oh, lei si inganna, signore», esclamò con impeto Fanny, costretta dall'ansietà del momento perfino a dire allo zio che si sbagliava. «Si inganna, completamente. Come ha potuto Mr. Crawford dirle una cosa simile? Non gli ho dato alcun incoraggiamento ieri. Al contrario, gli ho detto... Non so ricordare le parole esatte, ma sono sicura, sicura di avergli detto che non volevo dargli ascolto, che la cosa era assai spiacevole per me da ogni punto di vista e che gli chiedevo di non parlarmi più in quel modo. Sono sicura di aver detto tutto questo e anche di più, e avrei aggiunto altro ancora se fossi stata certa che parlava seriamente, ma non volevo esserlo, non potevo sopportare di esserlo e attribuirgli maggior peso di quanto intendesse. Ho pensato che il tutto non avesse alcun serio valore per lui. Non le riuscii di dire altro, era rimasta quasi senza fiato. Devo capire, disse Sir Thomas dopo alcuni istanti di silenzio, che hai l'intenzione di rifiutare Mr. Crawford? Sì, signore. Rifiutarlo? Sì, signore. Rifiutare Mr. Crawford? Con quale scusa? Per che motivo? Io non posso, non può piacermi abbastanza da sposarlo. È molto strano, disse Sir Thomas con tono di calmo scontento. C'è qualcosa in tutto questo che non riesco a capire. Ecco, un giovanotto che desidera corteggiarti e che ha ogni cosa in suo favore, non solamente la situazione sociale, la ricchezza e il carattere, ma anche una carica di simpatia poco comune, capace di un porgere, di una conversazione che incantano tutti. E non è una conoscenza recente, ormai lo frequenti da un certo tempo, per di più sua sorella è tua intima amica. E lui ha fatto per tuo fratello qualcosa che avrei creduto dovesse raccomandartelo più che a sufficienza, anche se non avessi avuto nulla altro a suo credito. Non è affatto sicuro che il mio impegno avrebbe potuto far avanzare nella sua carriera, William. E lui ci è subito riuscito. Sì, disse Fanny con voce spenta e abbassando lo sguardo con rinnovato impaccio. E dopo il quadro che lo zio le aveva tracciato, quasi si vergognava di sé per non riuscire a trovare Mr. Crawford di suo gusto. Devi esserti accorta, continuò Sir Thomas incalzando, non puoi non esserti accorta da un po' di tempo in qua di quanto fosse particolare il comportamento di Mr. Crawford nei tuoi riguardi. Quanto succede oggi non può coglierti di sorpresa. Devi avere notato le sue premure. E benché tu le abbia sempre accolte con grande proprietà, non ho accuse da farti in proposito, non mi sono mai accorto che ti infastidissero. Sono incline a pensare, Fanny, che non sai leggere bene in te stessa. Oh no, signore, no. So farlo, le sue premure sono sempre state quello che non mi piaceva nei suoi modi. Sir Thomas la fissò con ancora più grande sorpresa. Questo oltrepassa la mia capacità di comprensione, disse. Questo esige una spiegazione. Giovane come sei e non avendo incontrato quasi nessuno, è quasi impossibile che il tuo cuore... Si interruppe e la guardò fissamente. Vide che le sue labbra accennavano un no, anche se il suono... Era inarticolato, ma il suo viso era scarlatto. Tuttavia la cosa era del tutto compatibile con l'innocenza di una giovinetta tanto modesta e decidendo di sembrare soddisfatto, almeno in apparenza, aggiunse frettolosamente: No, no, so che questo è fuori questione, assolutamente impossibile. Bene, non c'è altro da dire. E per alcuni momenti non pronunciò parola. Rifletteva profondamente e profondamente rifletteva anche sua nipote, sforzandosi di irrigidirsi, preparandosi ad affrontare altre domande. Sarebbe morta piuttosto di confessare la verità e sperava con un po' di riflessione di fortificarsi tanto da riuscire a non tradirsi. Indipendentemente dall'interesse per te che la scelta di Mr. Crawford sembra giustificare, disse Sir Thomas riprendendo il discorso assai compostamente, il suo desiderio di sposarsi in così giovane età mi trova del tutto consenziente. Sono favorevole ai matrimoni contratti in età giovanile, quando vi sono mezzi sufficienti, e vorrei che ogni giovanotto con un reddito adeguato si sistemasse appena possibile dopo i 24 anni. Questa è così sinceramente la mia opinione che sono spiacente di vedere quanto poco il maggiore dei tuoi cugini, il mio primogenito, Mr. Bertram, sia propenso a sposarsi per tempo. Ma per il momento, fin dove posso giudicare, il matrimonio non occupa nessun posto nei suoi piani e nei suoi pensieri. Vorrei che fosse più propenso a sposarsi. A questo punto gettò un'occhiata su Fanny. Edmund, data la sua indole e le sue abitudini, mi sembra più incline a sposarsi prima del fratello. In questi ultimi tempi ho avuto l'impressione che lui abbia trovato la donna che potrebbe amare, il che, ne sono convinto, non ha affatto il mio figlio maggiore. Ho ragione? La pensi come me, mia cara? Sì, signore. Fu detto quietamente, con tutta calma, e Sir Thomas si sentì tranquillizzato sul conto dei due figli, ma l'aver posto fine ai suoi allarmi non giovò granché alla nipote. Visto che nell'impossibilità di giustificarne la condotta, lo scontento di lui ne fu rafforzato e alzandosi dalla sedia prese a passeggiare per la stanza e con un cipiglio che Fanny, benché non ardisse alzare gli occhi, poteva bene immaginare, poco dopo disse con voce autorevole: «Hai qualche motivo, figliola, di giudicar male il carattere di Mr. Crawford?» «No, signore», avrebbe voluto aggiungere, «ma ne ho per giudicare male i suoi principi». Però si sentì mancare il cuore al pensiero di discutere, di spiegare, senza probabilmente riuscire a convincerlo. Il suo giudizio negativo si basava principalmente sulle osservazioni che per amore delle cugine non poteva esporre al loro padre. Maria e Giulia, ma specialmente Maria, avevano così direttamente a che fare con la cattiva condotta di Mr. Crawford che non poteva descrivere quello che ne era fermamente persuasa era il carattere di lui senza coinvolgere anche loro. Aveva sperato che per un uomo qual era lo zio, dal discernimento così penetrante, così rispettabile, così buono, la semplice dichiarazione di una fondata antipatia da parte di lei sarebbe bastata. Con sua pena infinita, scoprì che non era così. Sir Thomas venne al tavolo davanti al quale sedeva in trepida desolazione e con accentuata fredda severità disse: «Non serve, me ne accorgo, parlarti. È meglio por fine a questo colloquio più che mortificante. Non possiamo far aspettare più a lungo Mr. Crawford. Perciò aggiungerò soltanto, considerando mio dovere mettere bene in chiaro la mia opinione circa la tua condotta, che hai deluso tutte le aspettative che mi ero fatto nei tuoi confronti e che stai rivelando un'indole contraria a quella che ti attribuivo. Perché, Fanny, e penso che la mia condotta lo abbia dimostrato, mi ero formata una favorevolissima opinione sul tuo conto, fin dal mio ritorno in Inghilterra. Ti pensavo immune dall'ostinazione, dalla presunzione e da quell'indipendenza di spirito che tanto prevale ai nostri giorni, perfino nelle fanciulle, e che appunto nelle fanciulle è offensiva e repellente più di qualsiasi altro difetto. Ma ora tu mi hai dimostrato che sai essere caparbia e perversa, che tu vuoi e sai decidere da te stessa senza alcuna considerazione o deferenza per quelli che sicuramente hanno un certo diritto di guidarti, senza nemmeno chiedere il loro consiglio. Ti sei dimostrata molto, molto diversa da come ti avevo immaginata. Ciò che può essere vantaggioso o svantaggioso per la tua famiglia, per i tuoi genitori, per i tuoi fratelli e per le tue sorelle, non sembra aver sfiorato nemmeno per un istante i tuoi pensieri in questa circostanza. Come potrebbero essere avvantaggiati da una simile sistemazione? Come se ne rallegrerebbero? Non ha nessun peso per te? Pensi solo a te stessa? E poiché non senti esattamente per Mr. Crawford quel che una giovane immaginazione esaltata considera necessario per garantire la felicità, decidi di rifiutarlo, senz'altro, senza chiedere nemmeno un po' di tempo per riflettere. Un altro po' di tempo per considerare a freddo la cosa e per esaminare razionalmente la tua inclinazione, e in un momento di pura follia getti via un'ottima opportunità di sistemarti nella vita in modo altamente desiderabile, onorevole, nobilmente ordinato, un modo che probabilmente non ti si ripresenterà mai più. Ecco un giovanotto di buon senso, di carattere, di indole buona, di modi corretti e ricco, innamoratissimo di te, che chiede la tua mano con tanto nobile disinteresse e, lascia che te lo dica, Fanny, potrai vivere altri 18 anni senza essere richiesta da un uomo in possesso della ricchezza di Mr. Crawford o della decima parte dei suoi meriti. Con gioia gli avrei concesso sia l'una che l'altra delle mie figliole. Maria è nobilmente sposata, ma se Mr. Crawford avesse chiesto la mano di Giulia, gliel'avrei concessa con una soddisfazione maggiore e più cordialmente sentita di quanta ne abbia provata dando Maria a Mr. Rushworth. E dopo una pausa di mezzo minuto, non solo, ma sarei stato assai sorpreso se l'una o l'altra delle mie figliole, ricevendo in qualsiasi momento una proposta di matrimonio che presentasse metà dei vantaggi di questa, immediatamente e perentoriamente e senza concedere alla mia opinione o alla considerazione che mi è dovuta l'onore di consultarmi, vi avesse risposto con un reciso rifiuto. Sarei stato molto sorpreso e molto ferito da un simile modo di agire. L'avrei considerato una madornale violazione del dovere e del rispetto dovutimi. Certo, tu non devi essere giudicata sullo stesso metro, tu non hai verso di me i doveri di una figlia, ma Fanny, se il tuo cuore può assolverti dall'ingratitudine, si interruppe. Fanny stava piangendo così amaramente che per Quanto irritato gli fosse, non volle insistere su quel punto. Si era sentita spezzare il cuore al pensiero di come appariva agli occhi di lui, al pensiero di quelle accuse così pesanti, così numerose, che si succedevano in uno spaventoso crescendo. Caparbia, ostinata, egoista, ingrata. Pensava che lei fosse tutto questo. Aveva deluso tutte le sue aspettative. Aveva perduto la sua buona opinione. Che ne sarebbe stato di lei? «Mi dispiace», disse semi soffocata dalle lacrime. «Mi dispiace tanto, davvero!» «Ti dispiace?» «Sì, spero che ti dispiaccia. E probabilmente avrai ragione di sentirti dispiaciuta a lungo per aver respinto la proposta di oggi.» «Oh, se mi fosse possibile fare altrimenti!» riuscì a dir lei con un nuovo grande sforzo. «Ma sono così perfettamente convinta che non lo potrei mai, mai fare felice e che sarei infelicissima io stessa.» Scoppiò nuovamente in lacrime, ma a dispetto di ciò e a dispetto di quella grande, tremenda parola, infelicissima, che le aveva precedute, Sir Thomas incominciò a pensare che a provocarle fosse stato un piccolo cedimento, un leggero mutamento della sua linea di condotta, e a prevedere l'eventualità di una soluzione favorevole grazie alla perorazione in prima persona del giovanotto. La sapeva molto timida ed eccessivamente emotiva, e pensò che probabilmente la sua mente si trovava in uno stato di confusione su cui un po' di tempo, un po' di insistenza, un po' di pazienza e un po' di impazienza, una giudiziosa fusione di tutte queste cose da parte dell'innamorato, avrebbero potuto ottenere il loro naturale risultato. Se il giovanotto acconsentiva a perseverare, se l'amava abbastanza da perseverare, Sir Thomas incominciò a nutrire speranze e, rincuorato dalle riflessioni che gli avevano attraversato la mente, disse con un tono di confacente gravità ma con mitigata irritazione: «Bene, bambina, asciugati gli occhi. Le lacrime non servono a nulla. Ora devi scendere con me. Abbiamo già fatto aspettare Mr. Crawford troppo a lungo. Devi dargli la tua risposta personalmente. Non possiamo aspettarci che si accontenti di meno, e tu sola puoi spiegargli da cosa è nato questo malinteso circa i vostri reciproci sentimenti che sfortunatamente per lui egli ha male interpretato. Io non sono assolutamente in condizione di farlo.» Ma Fanny dimostrò una tale riluttanza, un tale smarrimento all'idea di scendere a raggiungerlo, che Sir Thomas, dopo breve considerazione, giudicò fosse meglio non insistere. Le sue speranze sul cavaliere e la dama subirono una certa flessione, ma quando osservò meglio la nipote e vide in che stato le lacrime ne avevano ridotti i lineamenti, la carnagione, pensò che poteva esservi tanto da perdere quanto da guadagnare con un'intervista immediata. Con alcune parole piuttosto vaghe se ne andò dunque da solo, lasciando la povera Fanny seduta e piangente a meditare su quanto si era svolto in piena desolazione. La mente era completamente sconvolta. Passato, presente, futuro, tutto appariva terribile. Ma la collera dello zio le dava più pena di tutto il resto, egoista, ingrata, e lei gli era sembrata tale. Era immersa in una desolazione che non poteva avere fine. Non aveva nessuno che prendesse le sue parti, che la consigliasse, che parlasse con lei. Il suo unico amico era assente. Lui avrebbe potuto rabbonire il padre, ma tutti, forse tutti senza eccezione, avrebbero pensato che lei era egoista e ingrata. Probabilmente le sarebbe toccato di sopportare quel rimprovero ancora e ancora, di udirlo o di vederlo, di saperlo sempre presente in ogni cosa che si riferisse a lei. Non poteva non provare un certo risentimento verso Mr. Crawford, eppure se veramente l'amava, se anche lui soffriva a casa sua, tutto era infelicità e desolazione. Di lì a un quarto d'ora lo zio ricomparve e Fanny alla sua vista si sentì quasi svenire. Tuttavia egli le parlò in tono calmo, senza austerità, senza rimproveri, e lei incominciò a sentirsi rinascere. Trovò conforto tanto nelle sue parole quanto nei suoi modi. «Mr. Crawford se n'è andato. Mi ha appena lasciato. Non è necessario che ti ripeta quello che ci siamo detti. Non voglio calcar la mano su quanto tu ora provi, facendoti la descrizione di quello che ha provato lui. Basti dire che si è comportato davvero gentiluomo, nel modo più generoso, e mi ha confermato nella favorevolissima opinione della sua capacità di comprensione del suo cuore e del suo carattere. Alla mia descrizione di quello che stavi soffrendo, egli ha immediatamente cessato con la più grande delicatezza di insistere per vederti sul momento. A questo punto, Fanny, che aveva alzato lo sguardo, lo abbassò di nuovo. Naturalmente, continuò lo zio, non si può supporre che egli non chieda di parlarti da solo a sola, fosse anche per 5 minuti. Una richiesta troppo naturale, una pretesa troppo giusta per venirgli negata. Non c'è data fissa? Forse domani, o in qualsiasi momento, quando ti sarai sufficientemente ripresa. Per ora fa solo in modo di tranquillizzarti. Basta con queste lacrime, non fanno che esaurirti. Se, come voglio supporre, desideri dimostrarmi una qualche considerazione, non devi abbandonarti a queste emozioni, ma sforzarti, ragionando con te stessa, di raggiungere un maggiore equilibrio. Ora ti consiglio di andare fuori, l'aria aperta ti farà bene. Esci per un'ora nel viale ghiaiato, avrai la macchia di arbusti tutta per te e l'aria e il movimento ti ristoreranno. E Fanny, volgendosi ancora un momento mentre se ne andava, giù non farò menzione di quanto è avvenuto, non lo dirò nemmeno a tua zia Bertram. Non vi è motivo di causarle disappunto, anche tu, non parlarne. Era un ordine cui Fanny fu ben felice di ubbidire, ed era un gesto di gentilezza e di bontà che ella sentì fino in fondo al cuore. Le avrebbe risparmiato i rimproveri senza fine della zia Norris. Lo zio la lasciò tutta accesa di gratitudine. Qualsiasi cosa sarebbe stata sopportabile, salvo quei rimproveri. Perfino il vedere Mr. Crawford sarebbe stato meno sconvolgente. Uscì subito, come aveva raccomandato lo zio, e seguì il suo consiglio a puntino. Frenò le lacrime, tentò con tutta la sua buona volontà di calmarsi e di pensare lucidamente. Desiderava dimostrargli che, sopra ogni cosa, aveva bisogno del suo appoggio e aspirava a riconquistarne il favore, ed egli le aveva offerto un altro forte incentivo a controllarsi nel proporre di mantenere le zie all'oscuro di tutta la storia. Non destare sospetti col suo aspetto o i suoi modi era uno scopo che ora valeva la pena di perseguire, e si sentiva all'altezza di compiere ogni sforzo che la salvasse dalla zia Norris. Rimase colpita, veramente colpita, quando, tornando dalla passeggiata e rientrando nella stanza est, la prima cosa che attrasse il suo sguardo fu il caminetto acceso. Un fuoco! Le sembrava troppo che proprio in quel momento lo zio le volesse concedere un simile lusso, suscitava in lei un senso di gratitudine quasi dolorosa. Si meravigliò che Sir Thomas avesse trovato il tempo di pensare nuovamente a quel particolare da niente, ma seppe ben presto, per spontanea informazione della cameriera che entrò per occuparsi del caminetto, che sarebbe stato così ogni giorno. Sir Thomas aveva dato l'ordine. «Sarei veramente un essere insensibile se potessi essere ingrata», disse fra sé, «se il cielo non voglia che lo sia mai». Non incontrò lo zio né vide la zia Norris finché non si riunirono per il pranzo. I modi dello zio nei suoi riguardi furono assolutamente quelli di sempre. Fu sicura che egli non aveva l'intenzione che si producesse un qualche cambiamento nei loro rapporti e che solamente la propria coscienza aveva potuto immaginare qualcosa del genere. Ma la zia Norris prese quasi subito a rimproverarla, e quando Fanny constatò a quali e quanti spiacevoli commenti desse luogo il solo fatto di essere uscita senza informarla, sentì quanta ragione aveva di benedire la bontà che la salvava dalla stessa accanita riprovazione applicata a un fatto di importanza tanto maggiore. «Se avessi saputo che uscivi, ti avrei detto di andare fino a casa mia a portare alcuni ordini a Nanny», disse Mrs. Norris. «Invece, con mio grande disturbo, sono dovuta andare io stessa. Mi è stato molto difficile trovare il tempo per farle. Tu avresti potuto risparmiarmi la fatica, se solo ti fossi degnata di farci sapere che intendevi uscire. Per te non avrebbe fatto nessuna differenza, immagino, se invece di passeggiare nella macchia di arbusti fossi andata fino a casa mia». «Ho raccomandato io la macchia a Fanny perché è il posto meno umido», intervenne Sir Thomas. «Oh!» disse Mrs. Norris frenandosi per un attimo. Oh, è stato molto gentile da parte sua, Sir Thomas, ma lei non sa quanto sia asciutto il sentiero che conduce a casa mia. Percorrendolo, Fanny avrebbe fatto una passeggiata altrettanto buona, le assicuro, col vantaggio di essere di una qualche utilità e di fare un favore a sua zia. La colpa è tutta sua. Se solo ci avesse informate che stava per uscire, ma c'è un non so che in Fanny. L'ho spesso osservato anche prima. Le piace fare le cose a modo suo. Non le piace, le si dica quello che deve fare. Fa le sue passeggiate in piena indipendenza tutte le volte che può. Certo, in lei vi è una tendenza a fare le cose in segreto, uno spirito di insubordinazione, un che di assurdo che le consiglierei di vincere. Come osservazione generica sul carattere di Fanny, Sir Thomas pensò che nulla poteva esservi di più ingiusto, anche se così poco tempo prima aveva espresso il medesimo concetto lui stesso. Tentò di sviare la conversazione, lo tentò ripetutamente prima di riuscirvi, poiché Mrs. Norris non aveva discernimento sufficiente per percepire, né in quello né in qualsiasi altro momento, fino a che punto egli pensasse bene della nipote o quanto poco desiderasse di veder mettere in risalto i meriti delle sue figliole, deprezzando quelli di lei. Ella continuò a parlare a Fanny, risentendosi per la sua passeggiata solitaria fino a metà del pranzo. Finalmente questo ebbe fine e la serata ebbe inizio con minor tensione per Fanny e con maggior calma di quanto avesse sperato dopo una mattinata così tempestosa. Ma in ogni caso aveva la certezza di aver agito rettamente, di non essersi lasciata fuorviare dai suoi sentimenti. Poteva garantire la purezza delle sue intenzioni ed era incline a sperare che lo scontento dello zio si fosse attenuato e si sarebbe attenuato ancor più quando avesse considerato le cose con maggiore imparzialità e avesse sentito come un uomo buono deve sentire quanto sia miserabile e imperdonabile, quanto sia irrimediabilmente e colpevole sposarsi senza amore. Quando l'incontro minacciato per l'indomani fosse avvenuto, il problema, così si lusingava, sarebbe stato definitivamente chiuso e anzi, con la partenza di Mr. Crawford da Mansfield, ogni cosa sarebbe tornata ad essere come se il problema non fosse mai esistito. Non poteva, non voleva credere che l'amore di Mr. Crawford per lei potesse farlo soffrire a lungo. La sua indole non era di quello stampo. Londra avrebbe portato ben presto rimedio alla delusione. A Londra sarebbe giunto a meravigliarsi della propria infatuazione e a ringraziare il cielo per il buon senso di lei che lo aveva salvato da tante funeste e inevitabili conseguenze. Mentre la mente di Fanny era assorta in simili speranze, suo zio, quasi subito dopo il tè, fu chiamato fuori dalla stanza. Fatto troppo solito perché lei ne fosse colpita. Infatti non vi fece gran caso finché il maggiordomo non ricomparve 10 minuti più tardi e andando decisamente verso di lei disse: Sir Thomas desidera parlarle nel suo studio, signora. Allora le balenò un sospetto che cancellò il colore delle sue guance. Si alzò immediatamente, preparandosi a obbedire, quando Mrs. Norris la trattenne, esclamando: Fermati, fermati, Fanny, cosa stai facendo? Dove vai? Non avere tanta fretta. Sta pur certa che non sei tu ad essere desiderata. Sta certa che si tratta di me. Guardando il maggiordomo: Ma sei tanto ansiosa di metterti avanti? Perché mai? Sir Thomas avrebbe bisogno di parlarti. Si tratta di me, Bedley, vengo subito. Intendete me, Bedley, ne sono certa. Sir Thomas desidera me, non Miss Price. Ma Bedley fu fermo. No, signora, si tratta di Miss Price. Sono certo che si tratta di Miss Price. E vi era, dietro le sue parole, un mezzo sorriso che significava: Non credo assolutamente che lei farebbe al caso. Mrs. Norris, seccatissima, fu costretta a sedersi e a riprendere in mano il ricamo. E Fanny, lasciata la stanza piena di presaga agitazione, si trovò di lì a un minuto, come aveva previsto, sola con Mr. Crawford.